tue parole fanno male, sono pungenti come spine, sono taglienti come lame affilate e messe in bocca alle bambine, possono far male, possono ferire, farmi ragionare, sì, ma non capire, non capire. Le tue ragioni fanno male, come sei brava tu a colpire, quante parole sai trovare, mentre io non so che dire. Le tue parole sono mine, le sento esplodere in cortile. Oh, al posto delle margherite, ora ci sono cariche esplosive. Due lunghe romantiche vite divise da queste rime. Le tue labbra stanno male, lo so, non hanno labbra da mangiare. Delle margherite.